Letture di Radio 24. Il caso delle statue censurate ai musei capitolini durante la visita di Rohani si è concluso con il solito scaricabarili e con il licenziamento di una dirigente già in età da pensione, a fronte di una ricca buona uscita. Ma l'eco mediatico scatenato dai rivestimenti assemblati per coprire le nudità non si è spento e ora la stilista Alda Fendi vorrebbe acquistarli perché, a detta sua, quelle scatole sono meravigliose, sono una vera installazione. Per comprendere un po' meglio la portata di queste affermazioni, forse prima servirebbe porci una domanda. Cos'è che fa di un'opera d'arte un'opera d'arte? Ciò che è? Ciò che rappresenta? Il mercato e le sue regole? La critica e il suo giudizio? L'artista e la sua sensibilità? Il buon vecchio senso comune? Pragmaticamente verrebbe da dire, un po' di tutto questo, nel giusto equilibrio, contribuisce a rendere un'opera d'arte tale. Volendo affrontare l'argomento più nel dettaglio e adattandolo all'affaire Capitolini-Fendi, ma evitando ulteriori polemiche sulla bontà o meno dell'idea stessa di coprire quelle statue, si possono fare altre considerazioni. Se nel 1746 Charles Batteau, nel suo Le belle arti ricondotte a un unico principio, asserisce che la causa delle arti è nella piacevolezza, il loro principio comune nell'imitazione della natura, oggi non è più così. L'arte del secolo scorso ha prima modificato, poi stravolto questa regola di estetica come imitazione della realtà. E le nuove e sempre più variegate forme d'arte di cui possiamo godere oggi vivono di una nuova idea di rappresentazione, semplicisticamente parlando, passando anche attraverso la spesso sottile differenza tra oggetto estetico e oggetto fisico. Volendo sintetizzare all'estremo, si può dire che, indipendentemente dalle sue fattezze, l'oggetto estetico, cioè l'opera d'arte, porta con sé delle proprietà rappresentative, appunto, che possono essere artistiche, culturali, sociali, politiche, che l'oggetto fisico non ha. Dunque, a debite condizioni, e travalicando se stesso, oggi un oggetto comune può anche divenire un'opera d'arte. In quest'ottica, le scatole dei Capitolini possono essere portatrici di una rappresentatività altra rispetto alla loro fisicità. Sono nello stesso tempo simbolo, espressione e rappresentazione di una visione di una realtà, oltre che dei semplici parallelepipedi cavi di cartongesso. Detto ciò, e sorvolando se sia opportuno o meno che un atto possa essere dichiarato artistico a posteriori, l'idea o provocazione della stilista, oltre l'indubbio valore d'immagine, cioè pubblicità, che un'operazione del genere può portare con sé, potrebbe anche avere un suo valore artistico di fondo. Ma in questo caso, di che tipo di valore artistico si potrebbe parlare? Culturale? Commerciale? Si tratta di acquistare e rivendere le coperture definendole altro in un mero inquinamento tra oggetto e opera d'arte, capace solo di dargli un altro valore economico? O far sì che, attraverso un'operazione di revisione, intesa come nuova rappresentazione in quelle coperture con dentro le statue originali, si riconosca un'opera d'arte altra e che quindi porti con sé un altro e nuovo valore culturale, stimolando così un nuovo senso critico sia artistico che sociale. A voi l'ardua sentenza. E questo era l'articolo di Massimiliano Zane, Cosa fa di un'opera d'arte un'opera d'arte?, pubblicato l'8 febbraio su Wire. Letture di Radio 24. I diversi modi di usare lo smartphone per mandare i messaggi identificano l'età di chi lo utilizza, scrive Marco Belpoliti sulla Stampa, mentre il modo in cui si tiene il telefono mentre si sta parlando fa capire se chi lo utilizza è un cinese. Per le vie di Milano e di Prato, o per le strade di Roma, si vedono uomini e donne con gli occhi a mandorla, in particolare giovani, camminare velocemente e parlare al cellulare, tenendo l'oggetto discosto dall'orecchio, stretto tra palmo e pollice. Hanno attivato la funzione viva voce e mantengono lo smartphone a distanza. Lo usano come un microfono. Solo gli uomini d'affari cinesi utilizzano l'auricolare. Qualcuno ha osservato che questi giovani sarebbero entrati nel mondo della telefonia senza passare per la fase della cornetta o del cordless, che si posizionano aderenti al padiglione auricolare. Gli italiani continuano invece a comunicare in questo modo. Tuttavia, ora si vedono giovani per la strada, luogo dove le persone conversano più frequentemente con il cellulare, riempiendo gli spazi vuoti tra un'attività e l'altra, usare lo smartphone alla cinese. Insieme a questo nuovo gesto c'è anche quello della scrittura dei messaggi. Riguarda l'indice. Ne fanno uso per digitare sulla mini tastiera le persone dai 50 anni in su, mentre i ragazzi scrivono usando entrambi i pollici, allenati dalle pulsantiere dei videogiochi. Tutto questo confermerebbe l'intuizione di Darwin, secondo cui il pollice opponibile, potendosi muovere liberamente rispetto alle altre dita, ci ha permesso di diventare umani afferrando gli oggetti. Nel caso della digitazione sulle tastiere di smartphone e tablet, il pollice svolge però una funzione inattesa rispetto alle ipotesi di Darwin. Non ci rendiamo conto di come la nostra mano acquisisca funzioni operative ed espressive attraverso un lungo addestramento ed educazione. L'autonomia delle dita, pollice compreso, è la conseguenza della scolarizzazione, scrive Günther Gebauer, docente a Berlino. Sono in particolare lo scrivere a macchina e l'apprendimento del pianoforte, in realtà più raro, a educare rapidamente le nostre dita strutturando la mano ben al di là di ogni possibilità offerta dalla natura. La mano ha il grande compito di ripartire spazio e tempo, in particolare con la funzione del contare, aprendo una dopo l'altra le varie dita. Si struttura in questo modo un sistema d'ordine. Quando vediamo nostro figlio o un altro ragazzino digitare con i due pollici, non dobbiamo pensare che si tratti di una regressione, come saremmo indotti a pensare per il nostro conservatorismo, ma un'ulteriore evoluzione dei gesti possibili con mani e dita. Ed è stata proprio la scuola a istruirli, contro ogni possibile previsione, anche se non suonano Mozart, ma comunicano con gli amici. Avete ascoltato la lettura dell'editoriale di Marco Belpoliti, Smartphone alla cinese, dalla Stampa dell'8 febbraio. E a proposito di cellulari, cosa c'è di peggio che dover affrontare un viaggio ascoltando il nostro vicino che urlando nell'auricolare condivide i suoi fatti personali con tutti quelli che lo circondano? Nel corso di ogni singolo viaggio in treno tra Milano e Roma vengo a sapere della vita dei miei compagni di viaggio molto più di quanto sarebbe lecito e desiderabile. Si chiamano, in termini tecnici, dati sensibili. Pratiche di divorzio, business in corso, liti con i figli, malattie anche gravi complete di diagnosi e terapia, approfondimenti sul carattere di suocere e nuore, problemi di lavoro, progetti immobiliari. Tutto questo avviene non per mia volontà, ma perché almeno un passeggero su due parla ininterrottamente al telefono dei fatti suoi, ad altissima voce, concedendosi solo brevissime pause per riprendere fiato o per andare in bagno. Si va dal manager in perenne riunione alla mamma preoccupata, al padre che cerca di convincere la figlia di non iscriversi a filosofia, al portaborse che contatta i suoi contatti, al lobbista che tesse la sua tela, al cacciarone ordinario che dà appuntamento agli amici per la sera. Come sia possibile che tutte queste persone facciano della loro privacy carne di porco, mettendo a disposizione di almeno una decina di astanti i fattacci loro, è per me del tutto incomprensibile. È come se fosse caduto un argine naturale, come se fabbricassero i cessi senza la porta. Anche volendo sorvolare sul palese disturbo della quiete altrui, com'è possibile che una persona perda pudore e riserbo al punto da farmi sapere, è successo, che forse devono togliergli un rene? E quello che avete ascoltato era l'editoriale di Michele Serra, Cessi, dalla Repubblica del 4 febbraio. Solo un utente su tre ormai usa ancora gli elenchi del telefono. Eppure si continuano a stampare e solo negli ultimi due anni la SEAT ha investito 15 milioni di euro nelle guide cartacee. Nei casi peggiori giacciono abbandonati negli androni dei palazzi per mesi. Quando va un po' meglio restano tutto l'anno incartati nel cellophane in un mobile del salotto. È la lenta agonia dell'elenco telefonico, sempre più soppiantato da siti e app, se c'è da trovare un contatto. Eppure la guida entra ancora nelle case e nei luoghi di lavoro di 20 milioni di italiani. Proprio in questi giorni Seat Pagine Gialle ha cominciato a distribuire l'edizione 2016, un servizio che ha un costo che i titolari di un'utenza telefonica fissa spesso pagano a loro insaputa e che da tempo fa storcere il naso alle associazioni di consumatori. Diciamolo subito, la spesa è irrisoria. Si aggira in media attorno ai 3 euro che i clienti si ritrovano direttamente in bolletta. Dipende dai gestori. Per esempio, a partire dal 1 ottobre, TIM ha deciso di fissare l'addebito a 2,50 euro. Ma se moltiplichiamo questo numero per le copie di pagine bianche e gialle consegnate, viene fuori una cifra che si aggira tra i 30 e i 40 milioni di euro. Che di questi tempi è assurda per uno strumento del genere, commenta Gianluca Di Ascenzo, l'avvocato del Codacons. Secondo una ricerca di GFK Eurisco, oggi 17 milioni di persone utilizzano pagine bianche e pagine gialle. Circa il 34% del campione. Si tratta di popolazione spesso anziana, che non ha accesso a internet e usa il telefono e quindi la guida per chiamare uffici comunali, cercare il medico o lo specialista di cui ha bisogno, o ancora di persone che vivono in aree svantaggiate, dove le comunicazioni sono difficili, sottolineano dagli uffici della sede centrale di Seat a Torino. Il contributo richiesto ai gestori di telefonia e di conseguenza ai clienti serve per pagare i costi di distribuzione. La stampa degli elenchi, invece, è tutta a carico dell'azienda, che copre la spesa grazie alle inserzioni di chi ha un'impresa e vuole promuoversi nell'elenco acquistando spazi più grandi. Rispetto a tutti i contenuti che si possono trovare in una guida, la cifra richiesta ci appare davvero minima, aggiungono ancora da Seat. Ma il Codacons sta pensando di proporre ad Agicom e al garante della privacy una revisione al sistema di distribuzione degli elenchi. Si potrebbe pensare di consegnare la copia cartacea soltanto agli anziani o a chi vive in aree in cui l'accesso alla rete è difficile. Sarebbe già una bella conquista e un gran risparmio, rilancia Di Ascenzo. Intanto, chi non vuole più ricevere l'elenco a casa può rinunciare contattando il servizio clienti del suo gestore. La disdetta è gratuita e può avvenire in qualsiasi momento. Quanti lo fanno? Difficile da dire. Ma il trend è in crescita, rispondono da TIM. D'altra parte, la tendenza è smaterializzare tutto ciò che può generare costi. Eppure Seat ha investito nelle guide cartacee 15 milioni di euro negli ultimi 2 anni. Follia? No. Per noi questo è uno smart book, raccontano. Uno strumento formidabile e ancora utilissimo a molte persone anche oggi, che si integra perfettamente con gli strumenti digitali. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Lorenza Castagneri, Elenco telefonico, la lenta agonia che costa 30 milioni, dalla stampa del 9 febbraio. Fino a poco tempo fa si pensava che vivere in condizioni di felicità portasse a un allungamento delle aspettative di vita. Ma una ricerca pubblicata recentemente sulla rivista Lancet smonta questa teoria e dimostra che una condizione di infelicità o di stress non accorcia la vita. I risultati sono emersi da una ricerca su 1 milione di donne di circa 60 anni di età, sottoposte a un questionario 10 anni fa e di cui oggi sono stati verificati i tassi di mortalità. Ma come è stata valutata la felicità? Vivere in una condizione non svantaggiata, essere fisicamente attivi e non dipendenti dal fumo, avere una vita affettiva appagante e un sonno adeguato. I ricercatori hanno dimostrato che presentare questi elementi di felicità non costituiva un vantaggio rispetto alle altre donne. I tassi di mortalità successivi, infatti, sono praticamente sovrapponibili. Questo studio sembra essere in controtendenza rispetto all'opinione comune, e cioè che essere felici faccia bene alla salute. Anche la scienza fino ad oggi ha sostenuto questo assioma. In particolare, uno studio pubblicato sulla rivista scientifica PNAS qualche anno fa riportava che il tasso di mortalità diminuisce nei 5 anni successivi alla valutazione dello stato di felicità. Queste analisi erano però, secondo i ricercatori del più recente studio, minate da un'erronea interpretazione dei dati che avevano condotto a un'alterazione del rapporto causa-effetto, laddove infatti sono i problemi di salute a causare infelicità, e non il contrario. Sarebbe cioè la malattia a rendere infelici. Ma l'infelicità in sé non fa male. Ed è un cattivo stato di salute essere collegato a un aumentato rischio di morte prematura, non l'infelicità, che ne è solo la conseguenza. Questo almeno è quanto riscontrato nelle donne. Ma cosa succede agli uomini? Un editoriale sullo stesso numero di Lancet fa notare come numerosi studi suggeriscano che gli uomini e le donne definiscono la felicità in modo diverso e che quindi, prendendo in considerazione parametri differenti, è possibile che la felicità e l'infelicità siano invece collegate più fortemente alla morte precoce per gli uomini rispetto alle donne. Ovviamente nuovi studi con una definizione rigorosa dei parametri sono necessari per giungere a conclusioni più convincenti. Tuttavia, se questi risultati trovassero ulteriori conferme fino a diventare scientificamente validi, verrebbero percepiti come una buona o una cattiva notizia. Saremmo cioè più portati a rammaricarci che la felicità non potrà allungarci la vita, o al contrario sarà una consolazione pensare che lo stress e il malumore non ce la accorceranno. Se il fumo di sigaretta fa sicuramente più vittime della mancanza di sorriso, resta comunque il fatto che l'infelicità, pur non avendo un effetto diretto sulla longevità, rappresenta un fattore di rischio per una serie di comportamenti associati a loro volta a un aumento di mortalità. Nel dubbio, comunque, armiamoci di sorriso che, se non allunga la vita, migliora senza dubbio l'umore e rende più piacevoli le nostre giornate e quelle di chi ci sta accanto. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Maurizio Bifulco «Ma la felicità allunga o no la vita?» dall'Espresso del 4 febbraio.